Sono le 22 e un minuto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Rock Wave 2201, siamo in perfetto orario, cominciamo l'ennesima puntata di Rock Wave, questa è la puntata della vigilia della Befana, molto importante, giorno 5. Sì, stasera ospitiamo un trio, vengono da Rimini, sono in Nashville, un trio che hanno fatto un disco molto interessante, non è un tributo ai Police. Hanno ricostruito, hanno rifatto, hanno ripreso i pezzi di Police e li hanno dato una loro versione. Buonasera Nashville, state bene? Avete fatto un bel giro, una bella tornata da Rimini fino a qua? Un bel viaggio, decisamente un bel viaggio. Quindi Nashville Trio, l'idea di fare un disco, non è un tributo, ripeto, è una vostra interpretazione, bene o male, del disco dei Police. Dove è nata, dove si è sviluppata? Voi no, chiaramente non cantate, non suonate solo Police, fate tante altre cose, ma poi abbiamo tempo fino alle 24 per parlare di tutte le cose che fate. L'idea di fare questa specie di attributo, io l'ho chiamato attributo, non un tributo. Perché? Com'è nata? Beh, è nata perché principalmente siamo dei fan dei Police, quindi nasce da lì. E poi perché i Police sono un trio. Perché sì, anche Cream era un trio, però. Certo, certamente, ma ce ne sono tanti di trio. Esattamente. però perché, prima di tutto, un trio che ha molta affinità con il nostro modo di concepire la musica. Ma soprattutto perché per noi è una sfida, in quanto è un trio che è un trio elettrico. Certo. Noi siamo un trio acustico. Bene. E veniamo da dei mondi diversi. Abbiamo cercato di trovare un link, un ponte tra noi e i Police. Abbiamo preso i loro brani e li abbiamo fatti nostri. Smontati. Importante, tu hai detto una cosa giusta. Avete preso i loro brani, li avete fatti vostri. Non è una cartina da tornasole, cioè il pezzo rifatto come era, no, lo fate alla Nashville, certo, e quello è importante, è fondamentale. Quindi viene tenuto una cosa fondamentale, nonché uno step della nostra crescita, che era per la prima volta ci siamo approcciati ai brani in un modo diverso rispetto a come facevamo nelle nostre date vecchie, perché li abbiamo proprio pensate invece che semplicemente eseguite dal vivo, e abbiamo volutamente cercato di non riprodurre delle versioni già esistenti, che nel caso dei Police sono numerose. Esatto. Già lo stesso Sting è stato prolifico. Esatto, proprio prolifico, visto che recentemente ha fatto anche un disco di sinfonica, con l'orchestra sinfonica, ha avuto un successone a Roma, per esempio. Okay, il nostro progetto è nato prima, quindi è nato prima. Attenzione. Ma come nasce Nashville? Quanti anni hanno di gavetta? Tanti anni di sono una 12 anni 12 gavetta, come no? Si dice da noi, almeno sì. Quindi avete suonato dappertutto. Siamo iniziati in 2 su 3, poi siamo diventati 3. Comunque in 3 siamo già da quasi 9-10 anni, 7. Sì, almeno 7-8, sì. Va bene, dai. Ma il vostro repertorio è vastissimo. Ma il nostro repertorio si è creato durante le serate, perché noi tutto dal vivo. Dal vivo, sì. Assolutamente dal vivo. Avevamo voglia di fare una canzone, 2 su 3 magari la conoscevano e siamo partiti a farla. Venitemi dietro che partiamo questa pezza. E la maggior parte del repertorio si è creata in questo modo. E dopo le prove sono venute un po' dopo, perché noi abbiamo sempre fatto le prove, senza erano prove. Live dirette davanti al pubblico, queste erano le nostre pubblico, prove. No? Ho capito, bello così, proprio. Sì. Come si usava una volta, che si provava suonando praticamente. Sì, poi essendo acustici, comunque una dimensione ridotta, ci è riuscito questa cosa. Sì, ma il pezzo, il disco che avete presentato, questo recente sui Police, sì, è acustico, sì, però ha tante influenze, ha tanti occhi, ha tante immagini. Ma perché noi abbiamo tante influenze, ognuno di noi viene da mondi diversi, da ascolti diversi, da esperienze diverse, e quindi abbiamo messo nel calderone, abbiamo messo tutto, ci sono tantissime citazioni. Benissimo. Allora, non ci siamo ancora presentati, io ho presentato Nashville Trio, ma chi siete fondamentalmente? Ah, io direi di andare in ordine di anzianità. Ovviamente più vecchio sono io, sono Marcello. E io sono Michele. Matteo. Marcello suona la chitarra e l'armonica, sì. Michele il piano. Pianoforte, il voce. Il basso, e Matteo la chitarra e la slide. Stasera non hai parlato? Stasera non ho portato né la slide né il banjo. Né il banjo, soprattutto quello. C'è qualche pezzo nell'ultimo disco registrato, sì. Ok, allora facciamo così, come sempre, facciamo la finestra, cioè apriamo la finestra della trasmissione di stasera, di Rockaway di stasera, e presentiamo un pezzo da disco che avete scelto voi precedentemente, prima di andare in onda. Ti ricordi il titolo del pezzo? Sì, sono pronto. La so. Il pezzo sarebbe The Du Du Du De Da Da Da, ed è aperto da un intro vocale che dà anche il titolo all'ultimo album, appunto, che è Voices Inside My Head, no? Come se avessero, come se fosse stato un pezzo folk country. Sì. Ok, lo sentiamo assieme e poi andiamo. Voices inside my head, echo things that you say. Voices inside my head, echo things that you Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera, ma buonasera ad Agostino che è arrivato. Ciao, ah, ecco. Agostino. Buonasera. Sì, le cose a Rockway succedono perché è giusto cambiare la scaletta. Io sono stato molto soddisfatto. Ho sentito un pezzo da live all'inizio. Esatto. Era un singolo famoso dei Police. E voi l'avete rifatta in una maniera un po' particolare. Ci avete messo il country e non solo il country. C'è stato proprio un cambiamento nella disamina del pezzo. Come l'avete pensato in questa maniera? Questa, dire la verità, è una di quelle che è venuta in mente abbastanza semplicemente, perché assomiglia alla falsa riga che diamo più o meno a tutti i nostri pezzi. C'è del country, ma fondamentalmente la parola che forse unisce più di tutti i pezzi che facciamo è folk. Ecco, il folk, sì, folk in generale praticamente. Quindi sicuramente tanti cori, perché cerchiamo sempre di sfruttare questa nostra vocalità. Ma voi siete west coastiani, c'è poco da fare. Sì. Partenza non si può negare. I Police sì, però Police è un po' di California, ecco. Sì, esatto. Un po' californiani. Ok, Police in costume. Abbronzati. Ci saranno stati i Police una volta in California. Ma penso di sì, sicuramente. Anche se sono un po' all'inizio di carriera amavano più il punk che noi a West Coast, chiaramente erano molto punkettari. Dopo le cose sono cambiate, sai, e anche monetariamente sono molto cambiate, sicuramente. Sempre meno punk. Quindi Police, questo album Nashville è uscito da poco, è uscito a fine di novembre, chiaramente. Esatto, che gestazione ha avuto questo disco? Tanto tempo, lunghissima. Tipo quella di un elefante. Ho capito. No, abbiamo cominciato come progetto a pensarlo 2 anni fa. Abbiamo cominciato a registrare i primi demo, quindi gennaio di 2 anni gennaio fa. Di due, anni, due fa. Anni fa, esattamente. Sì. E poi si è dilungato, ma perché la nostra attività live, oltre alle nostre attività proprio come di registrazione, di lavoro, sì. C'è proprio un'attività live molto che è stata ricca, molto intensa. Esatto, molto intensa, e quindi facciamo molti live durante l'anno, e alla fine il tempo per registrare è pochissimo. È stato poco, però siete arrivati. Dobbiamo sottolineare una cosa, sì. La registrazione, se avete registrato questo disco, è stato c'è una distribuzione, però è autoprodotto da voi, praticamente avete fatto tutto. Anche voi. La copertina. Anche la copertina, che adesso abbiamo in regia. Chi è stato l'artista? C'è anche l'architetto sono io. L'architetto abbiamo qui. Sì, abbiamo fatto anche le magliette. Adesso le webcam sono vi fanno vedere le magliette praticamente. Sì, la copertina è molto diretta e istintiva. Ecco, fatela vedere nella webcam. Esatto. Eccola qua. Si tratta dei tre colori, simbolo dei Police, soprattutto certo. Dell'ultimo album, Synchronicity. Sono i tre colori primari che richiamano le loro tre entità distinte. Certo. E su questi tre colori primari noi ci abbiamo dipinto una bellissima N. Come Nashville. Esatto, tipo il segno di Zorro. Come Nashville, quindi. Esatto. Come Nashville. Alla mo' di Zorro, comunque, quindi cioè, per sono far cover, capire. Però comunque ci teniamo a far emergere il lavoro nostro. Certo, certo, ma come abbiamo detto all'inizio, ripeto, non è un tributo, questa è una vostra interpretazione, esatto, è quello esatto, importante, sì. Con tutti i risvolti vostri praticamente, certo. i vostri sistemi di suonare, di vedere, di sentire la musica dei Police, esatto. Questo è importante. Non sarebbe possibile altrimenti. No, decisamente no. Adesso sentiamo il pezzo di Police. Sentiamolo, disco, allora. Sì. Che abbiamo scelto prima. Che, ti ricordi il titolo? Can't Stand Losing You. Kent, esatto. Perfetto, ok. Times today, and I guess it's all true what your girlfriends say, that you don't ever wanna see me again, and your brother's gonna kill me, and he's 6'10". I guess you call it cowardice, but I'm not prepared to go on like this. I can't stand losing you. can't stand losing you. I see you send my letters back and my LP records out, they all scratch. I can't see the point in another day, but nobody listens to a word I say. You can call it lack of confidence, but to carry on living doesn't make no sense. I can't stand losing you. You'd call it suicide, but I'm too fool to swallow my pride. I can't stand losing you. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito allora questa riproposizione del pezzo di Sting, versione corretta, molto corretta, ma fatta bene, sì, da sì. Voi, chiaramente. Al momento, questo effetto com'era venuto fuori questo effetto? Ma allora, abbiamo cercato di tirar fuori il significato del testo. Sì. E il testo è, diciamo, la storia di un ragazzo che non viene, diciamo, lasciato dalla sua ragazza e quindi si uccide. Questa è la storia del brano. Nella copertina c'era Stuart Copeland impiccato, appeso, sì, esatto. Ecco. Alla faccia di chi pensa che i Police siano un gruppo allegro e scanzonato. Sì, esatto, no, anzi, no, è proprio così. Anzi. Un testo di Andrea. Quindi abbiamo cercato di rendere un po' più il testo, di renderlo un po' più comprensibile, addirittura con la simulazione della telefonata, ultima telefonata alla sua amata. E con la composizione del numero un po' pacchiana. Sì, sì, l'abbiamo forzata un po', però l'effetto, dato che siamo in ballo, funzionava. Certo, sì, certo. Ok, ringraziamo il nostro staff un secondo, Michele Tosoni in regia, c'è arrivato anche Agostino che gli dà una mano, abbiamo grazie, la Chiara grazie. Che fa le fotografie e il nostro produttore artistico che è Alberto Prisco, che può darsi che verso la fine di trasmissione venga a farle un giretto. Grazie ad Alberto, stasera siete qua. Adesso cominciamo grazie. Questa carrellata, a me ricorda molto Elvis Costello, lo sapete perché, Elvis Costello in ogni suo concerto metteva una ruota e gli spettatori tiravano le freccine sulla ruota e ogni ruota aveva un numero e corrispondeva a un brano praticamente. Esatto. Benissimo. Del repertorio di Elvis Costello. Con cosa iniziamo adesso, in questo momento? Allora, la freccia è... La freccia è dedicata a puntato a Take It Easy. Ah, bello, bello. Parliamo dopo di Jackson Brown, lo sentiamo. Benissimo. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your wrong wheels drive you crazy. Loud enough, but you're still dim. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. So take it easy, alright. Well, I'm standing on a corner in Nashville, Tennessee. Sits a fireside to see. It's a girl, my lord, in a flat map full. Slowing down, take a look at me. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know if your sweet love gonna save me. We may lose, we may win, though we will never be here again. Up, I'm climbing in. Just take it easy. All right. Sound of devil will make you crazy. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know if your sweet love gonna save me. Three, four, California, siamo proprio arrivati, ci siamo buttati in California. Ripetiamo che Jackson siamo in Brown acqua. Ha prodotto il primo siamo nel album. Deserto, siamo per la precisione. È californiano, bro, sempre nel deserto. Certo, certo. Winslow, Arizona. Arizona. In ogni caso, è prodotto il primo album degli Eagles, è stato Jackson Brown. Si è sdoganati. Erano musicisti straordinari, però senza Jackson Brown. È vero, è vero. 1972. Il famoso Take It Easy è stato un singolo di grosso successo negli Stati Uniti. Sì. Ah, ormai è una colonna sonora di ogni viaggio. Fra l'altro ci raccontava un nostro amico che è stato da poco in America, che è stato nella città citata nel testo, che è Winslow in Arizona, che praticamente ha costruito musei e merchandise solo per l'esistenza di quella frase. Sì, è una strada, praticamente è un incrocio, esatto. E ci hanno fatto merchandise, esatto. Su quello, sì. Sì, sì, c'è proprio il corner, il corner in Winslow, Arizona. Sì. Sei stata anche contenta all'Electra quando hanno inciso le Tisi? L'etichetta loro. Molto contenta. Direi di sì. Ok, no, era l'Electra, era la Geffen Records. Adesso loro incidevano quella Geffen Records, i primi dischi loro degli Eagles. Era la Geffen Records. Era una un'etichetta a parte, cioè era staccata dall'Electra, avevano fatto questa etichetta. In ogni caso, dipendentemente da questo, era un grandissimo pezzo e ha dato sdoganato le vie degli Eagles. Poi gli Eagles sono diventati una band famosissima, non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo. È un grande Jackson Browne. Jackson Browne è un grande, ha scritto delle cose meravigliose. The Pretender, ve lo ricordate? Sì, The Pretender, sì, sì. Di Jackson Browne. Rude. Esattamente. Fatto. Poi quel pezzo che poi in italiano è stato ripreso da Ron, sì, che sì, sì. Non era proprio di Jackson Browne, è un amico di Jackson Browne, che Jackson Browne l'ha ripreso, e certo sono delle vie traverse. Ok, in ogni caso abbiamo iniziato con questo pezzo favoloso degli Eagles. Il pezzo subito dopo nella scaletta che cos'è? Questa piace a te. Ah, adesso piace a me. Ok, la sentiamo senza dire il titolo, perché esatto. Dovremmo indovinarlo. SMS 346 23 20 033 Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Adesso era meno di sì, è un po' bassa però. Eccoci qua, eccoci qua. Perché un inglese che suonava e cantava con gli Hollies, che faceva il beat, ha deciso di andare negli Stati Uniti a prendere per mano gente come David Crosby, gente come Stephen Stills e soprattutto gente come Neil Young? Punto di domanda. Si chiama ancora Graham Nash. Perché? Perché non trovava lavoro in Inghilterra. Perché c'era voglia di... C'era la recessione, di sole forse. An Englishman in New York. Esatto. Però potremmo dedicargli questa canzone. Io ho letto numerose interviste di Nash. Era praticamente il personaggio che riusciva a tenere buono a bada due grandi geni come erano Cameron e Stephen Steele e Neil Young, che andavano due mai brutti caratteri soprattutto. È bello che loro avevano fondato i Buffalo Springfield molti anni prima, è vero. Però c'è poco da fare, e così è la vita. Ci vuole sempre il trade union per far andare avanti le cose, e questo è un pezzo meraviglioso, decisamente bellissimo, incredibile, fatto da quel genio, perché lui sapeva fare le cose molto delicate. Non era mai cattivo musicalmente parlando, c'erano già altri cattivi musicalmente, quindi lui, diciamo, mischiava, era quello che mischiava le cose con dolcezza. In effetti le sue canzoni sono tutte con molto classe. Più esatto, sono, si vede che quel gusto melodico si sente che è tipicamente inglese. Song for Beginners, scritto sicuramente è il più bello che lui ha scritto. E poi ha avuto correlazioni, tanti avvicinamenti, quelli come con Johnny Mitchell, assolutamente con Johnny Mitchell, musicale e non. Parliamo solo dal punto di vista musicale, ha scritto tante cose interessanti, però è considerato un minore, ma un minore fino a un certo punto, assieme agli altri tre non era assolutamente un minore. Esatto, come nel caso di Jackson Browne, ci sono alcuni artisti che hanno appunto abilità di scrittura inequivocabili, però magari non hanno mai colpito il grande successo come altri per questioni di carisma, di immagine o di sapersi proporre in modo più incisivo al pubblico al di là della musica. La composizione è una cosa, il colpire il pubblico è un'altra, questa è una cosa che vediamo tutt'oggi. E mi avete raccontato un episodio prima di andare in onda. Questo pezzo l'avete fatto sentire ai californiani oppure no? Esatto, sì, è successa questa cosa che ancora stentiamo a crederci. Tra l'altro era anche particolare come situazione, perché ci trovavamo a suonare a San Marino, che è vicino a dove veniamo noi, che è Rimini, e ci siamo trovati di fronte a anche parecchi turisti, oltre che locali, e fra questi turisti evidentemente c'era una famiglia di californiani, quindi più originali di così impossibile. E i complimenti che ci hanno stupito più di tutti erano proprio loro, che dicevano: ci vorrebbe un gruppo come noi dalle nostre parti, che noi facciamo la loro musica. Ma evidentemente si vede è una cosa meravigliosa, sì, rara, meravigliosa, a quasi inspiegabile direi, però è successo, quindi. Hanno sentito la California a Rimini, eh? Esatto, dicevamo prima, sì, Rimini è nella costa est, è all'est, non è all'ovest come la California, però cosa vuol dire? Non dire assolutamente niente. L'est c'è la costa newyorkese, quindi la costa fredda, la costa dei Velvet, della musica piuttosto fredda, mentre la costa ovest è la costa solare, la costa californiana, però si può rivoltare il discorso. Noi il sole lo vediamo sorgere, quindi comunque lo vediamo. Ok. Benissimo, sono le 23:34, io proporrei questo adesso, ci fermiamo un altro momento e sentiamo un altro pezzo dall'album dedicato, un album che avete percorso sulle strade di Sting e dei Police. Esatto. L'altro pezzo che abbiamo scelto in scaletta, ti ricordi qual è? Se non ricordo male, dovrebbe essere Message in a Bottle. Ah, Message in a Bottle, lo sentiamo allora, ok. Just a castaway, an island lost at sea. Another lonely day with no one here but me. More loneliness than any man could bear. Rescue. Send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope. Message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle. Since I wrote my note, I should have known this right from the start. Only hope can give me together. Love can mend your life, but love. I send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope. Message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle, yeah. Walked out this morning, I don't believe what I saw. 100 billion bottles washed upon the shore. Seems I'm not alone in being alone. 100 billion castaways looking for a home. Send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope. Message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. La difficoltà di avvicinarsi a un pezzo come Message in the Bottle. E c'è molta difficoltà perché ci sono gli strali dei polis dipendenti, come si fa a toccare un pezzo storico, una nicchia. Sì, sì. Però l'avete fatto. Sì, abbiamo avuto un po' paura. Esatto. Quando abbiamo finito di registrare abbiamo avuto un po' paura. Abbiamo detto, abbiamo creato un mostro. Sì, sì. Cioè, infatti dal vivo ancora non abbiamo il coraggio di farlo. C'è da dire che noi facciamo già una versione di Message in a Bottle dal vivo è... che piace molto, è una versione che Sting fa acustica da diversa da questa, anni. Sì, quella al peso molto simile originale. Esatto, molto simile, diciamo, all'originale. E, per cui quando ci siamo avvicinati a questo brano, anche in questo caso abbiamo detto via, spaziamo via tutto e ricominciamo da zero. Abbiamo tenuto certe cose, il riff di chitarra l'abbiamo modificato. Ci avete messo l'organo, esatto. Soprattutto il ritornello è un qualcosa che spazza via. Sì, sì, spazza via. Quindi totalmente. Può piacere, come no. Tant'è che anche a noi, siamo in tre, non piace, non convince a tutti il ritornello. Però era un qualcosa che staccava completamente dalla strofa precedente. Ma dimmi. Non lo facciamo dal vivo perché ci spaventa un po' questa canzone. Non siamo riusciti ancora a renderla pienamente dal vivo, quindi... Sì, perché comunque ci sono certe canzoni che rendono su disco e non dal vivo, viceversa. Oppure alcune hanno il dono di rendere in tutti e due i casi. Questa ancora dobbiamo cercare di approcciarci bene dal vivo, perché non renderle giustizia, quello sarebbe un crimine decisamente, insomma, sì, esatto, imperdonabile. Sì, ma già avere il coraggio di prendere un pezzo simile, che bisogna essere coraggiosi, e farlo a vostro modo, e quello è il discorso, è importante. Ma noi abbiamo una forte personalità, maturata in più di 10 anni di live, e quindi il nostro sound lo conosciamo molto bene, per cui ci sentiamo abbastanza sicuri di questo e ci prendiamo la responsabilità di questa cosa. Cioè, il riff melodico si sente, però sì, si sente la melodia, si sente che questo è messo in the bot, però poi la melodia viene... un po' allontanata, perché lo fate, cioè costruite voi il pezzo sul pezzo, e questo è importante. Esatto, il più che ci premeva è che non risultasse forzato, nel senso che, fra l'altro, anche questa ha avuto una gestazione più lunga di altre, perché l'abbiamo prima fatta in un modo, poi l'abbiamo rifatta da capo. Comunque ci tenevamo ad esserne comunque contenti, cosa che alla fine è successa, insomma. Certamente. Quindi il più che non risulti una cosa forzata. Una cosa spontanea, esatto. Vostra, assolutamente vostra. Ok, adesso facciamo una cosa meravigliosa che non è proprio vostra, però di un gruppo, di un duo, di un tempo fa. Veramente era un trio. Sì, adesso quello. Dopo sono diventati duo, prima erano un trio, chiaramente. Quando hanno fatto questa canzone erano un trio. Quindi... Esatto, erano all'inizio di carriera praticamente, esatto. Sconosciuti, sconosciutissimi si può dire. Però la Warner Bros, quando gli ha fatto incidere questo pezzo, ha detto, no, questo va bene. C'aveva ragione alla grande. Poi è un testo molto bello, molto significativo, importante. Lo senti? No, non diciamo il titolo, non serve. Sì, prima di cominciare salutiamo i nostri Istanbul Café che ci stanno ascoltando. Esatto. Siamo onorati di sentire altri gruppi, di sapere che altri gruppi ci stanno ascoltando. Quindi... Esatto. Salutiamo anche chi da Rimini, da lontano, ci sta ascoltando. Sì, via streaming. Via streaming oppure sulla digitale terrestre. Sì. No, non so sul digitale, via streaming sicuramente. Via streaming. Esatto. Benissimo. E sia, pezzo senza titolo. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and nails and rings. The first thing the man was a fly with a buzz in the sky with no clouds. The heat was soft and the ground was dry, but the air was full of sound. Been through the desert on a horse in no name. Felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, cause there ain't no one for to give me no pain. La la la la la la la la la la la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at the riverbed. And the story you told of a river that flowed and made me sad to think it was dead. You say I've been through the desert on a horse with no name. I felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, because there ain't no one for to give no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Let the ocean free, cause the desert would turn to sea. The well plants and birds and rocks and things of well sand feels a ring. The ocean near the desert with the lavender ground and the velvet disguise of blue. the sea lies a home with the ground, but the woman you give no lie. I been to the desert on a horse with no name. I felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, cause there ain't no one for you giving a praise. Sing along. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Questa stiamo cantando tutti, ragazzi, stiamo Vai, cantando tutti, benissimo. Chiara compresa, che è venuta a leggersi il testo sul libro. Stiamo cantando tutti, perché questo è un pezzo ormai storico, i Horse With No Name, gli America. Questo cavallo senza nome, è un brutto la traduzione italiana, non esprime niente di quello che era questo pezzo meraviglioso. Questo è il classico pezzo che anche se lo fai di fronte a gente che non lo conosce, magari non sa chi sono gli America, non sa il genere, però dice ah questa è bella o comunque l'ho già sentita. Chiaramente sì. Ed è quindi una di quelle che usiamo ad effetto, sì, a inizio concerto, sì, per forzare il rapporto col pubblico. Crea la sonorità che, che vogliamo dare, esatto, al pubblico noi. E poi ho notato una cosa, Michele ha giocato un po' alla Dixieland in un momento, fra un pezzo, fra il momento del pezzo c'è un secondo in cui giocava alla Dixieland, cioè giocava col piano, con le note del piano. Sì. Ma lui gioca sempre, non è solo in questa canzone, gioca il senso positivo. Sì, sì, sì. Ok, salutiamo un momento la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, sono tre ragazze che ci seguono sempre nei nostri ciao, live. Benissimo. Ci salutiamo. Grazie. Ok, adesso dunque in scaletta, fammi vedere cosa c'è in scaletta. C'è un'altra cosa molto bella, deliziosa. No, io volete farsi un pezzo dal disco, volete riposarvi un secondo? No, facciamo due brani e facciamo un altro pezzo live. Sì, allora. Non mi sento stanco. Perfetto. Già girare il libro, chiaramente, per forza, è un libro voluminoso, bisogna girarlo. Sì, ma è solamente perché io ho la memoria corta. Beh, d'altronde, tanti pezzi. Questo lo facciamo sentire. Ah, diciamo il titolo anche di questo, è necessario. È una canzone di Neil Diamond. Ma qualcuno in Italia la conosce su una versione di Gianni Morandi. Bello, adesso lo sentiamo, ok. Vecchio Gianni. Marcello all'armonica. Well, and it was mine till the time that I found her holding Jim, loving him. Then she came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue that died too. Don't know that I will, but I still I can find me a girl who stay and won't play games behind me. I'll be what I am, solitary man, solitary man. I've had it to hear being lonely. Small world, part-time fame, paper rain, and though it's been done, having one girl who loves me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who stay and won't play games behind me, I'll be what I am, solitary man, soul tearing me in. Solitary man, solitary man, solitary man, solitary man, solitary man, solitary man. Rock Wave, l'onda del rock. Nashville, ladies and gentlemen, Nashville. Ragazzi, questo avete gli applausi finti? Bravo. Ecco, i veri, no? Sono veri, assolutamente. Questo non è un pezzo di Gianni Morandi, ma un pezzo di Lil Diamond. Ma non è un pezzo di Gianni Morandi, anche se è scritto Mogol Diamond. Era il retro, cioè il lato B di... C'era un ragazzo che come me amava Beatles e Rolling Stone, di pezzi favolosi. E Se Perdo Te è un pezzo di Neil Diamond rifatto e riveduto e corretto da Mogol. Neil Diamond non ne sa niente che non Mogol sa, ha fatto. Non so se lui, all'epoca non so se, all'epoca non si sa come va la storia. In ogni caso un pezzo meraviglioso. Io l'ho sentito, ti dicevo prima di andare in trasmissione, una versione meravigliosa da Chris Isaac. Chris Isaac, che ha una voce strepitosa. E poi hanno fatto in tanti solitari in me. Infatti noi quando abbiamo deciso di fare questa canzone abbiamo detto facciamo questa canzone perché si ricordano quella di Gianni Morandi, esattamente, e gliela facciamo in inglese, sembra una canzone nuova. Sì, noi abbiamo delle volte anche la pretesa, se vogliamo, di essere quasi dei tutor per certo tipo di musica di fronte a chi si ascolta, nel senso che non tutte sono arcinote, ne facciamo alcune molto note, altre invece un po' più ricercate, e in caso speriamo sempre che qualcuno che ci ascolta o per caso eccetera comunque dica bella questa, di chi è, magari a fine concerto ce lo chiede e chissà, certo, impara qualcosa di nuovo. È già successo diverse volte, ad esempio c'è una canzone dei Kansas che è Dust in the Wind, e la maggior parte delle persone che l'ascoltano pensano che sia nostra, insomma, e quando l'ascoltano quella originale dicono ah, hanno fatto una canzone uguale alla vostra, quella lì, Dust in the Wind, quindi ecco, questo ci fa molto onore, ecco, quindi ci rende molto orgogliosi. Ci siamo gettati sugli anni 60, questo è il 67, quindi pezzo favoloso. All'epoca c'erano dei pezzi favolosi, gli anni 60. Non è proprio West Coastiana questo qua, però insomma ci poteva stare. Ritorna quella parola folk. Che esatto. Prende dentro tutto. Il folk c'ha dentro tutto. Beh, Neil Diamond ha scritto tanti altri pezzi, ha scritto canzoni che hanno tradotto in italiano anche Caterina Caselli ed altra gente. Caterina Caselli traduceva molti pezzi in italiano. Ha tradotto anche un pezzo di Donovan, di Hello Mellow, Il Cuore Giallo. È un pezzo di Donovan, difficilissimo, che lo hai tradotto in italiano. Ok, chiusa la parentesi su Caterina Caselli. Ci riposiamo, sentiamo un pezzo o suonate ancora? No, sentiamo un pezzo. Sentiamo un pezzo. Dall'album cosa avete deciso? Adesso dovrebbe esserci credo Wrapped Around Your Finger. No, aspetta, no, la 9, la 9, la numero 9, sì. Okay. Ok, la sentiamolo. Thank you. see the destiny you sold turn into a shining band of gold. I've been wrapped around your finger, and I've been wrapped around your finger. Mephistopheles is not your name, for I know what you're up to just the same. I will listen out to your tuition, and you will see it come to its fruition. Around your finger, I'll be wrapped around your finger. SMS 346 2320 033. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua. Facciamo un piccolo riassunto su questo pezzo che è molto jazz. Almeno tu lo suoni in maniera jazzata, possiamo dire. Sì, abbiamo fatto questa trama dove c'è il basso che si segue a ogni ottavo, direi. E il pianoforte e la chitarra che gli creano questa ritmica dietro. Gli parla facile anche perché se no non mi capisco. Esatto. Parla radiofonico. Esatto. Insomma, sembra un pezzo jazz. Sì, un pezzo jazz perché secondo me alla fine è un tributo al tributo, cioè noi facciamo un tributo. Poi dici a lui, no? Ai Police. No, spiego perché. Noi facciamo un tributo ai Police, in particolare a Sting, sì. Che nella sua carriera solista poi ha avuto una fortissima componente jazz. Certamente, ha fatto un album famoso dal vivo, esatto, molto jazzato. Esatto, poi nella nostra scaletta c'è anche Englishman in New York. Sì, quindi sì, proprio un pezzo ad hoc. E quindi abbiamo reso tributo, abbiamo fatto diventare jazz un brano non jazz di Sting. Avete un po' miscelato. Sì, sì, sì, c'è uno studio dietro. Questa è una di quelle band che ha avuto meno gestazione, perché lì, una volta nata buona l'idea, la prima. Questa è venuta, sì, sì, facilissima, venuta fretta, si sì, scriveva da sé. Benissimo. Adesso sono le 23.02, c'è il solito giochino nostro. Visto, vai, che abbiamo poco tempo e vogliamo sentire sigla, musica, abbiamo deciso due dischi a testa da portare nella fantomatica Isola deserta. Esattamente. Perfetto. Quanto sei radiofonico quando fai così. Ah, guarda. Vai, vai. Allora, vado, parto io che sono vai, più Marcello, vecchio, dai. Partiamo in ordine di anzianità. Quindi, allora, io direi, chiaramente, non potendo portare tutto il catalogo di Sting e Police, ne scelgo uno di Sting, però, ed è un album che si chiama Mercury Falling, è forse uno degli album più bistrattati di Sting. Dalla critica, sì. Sì, però in realtà, almeno per me, è stato illuminante, in quanto ha fatto un album con, penso, 12 pezzi, ognuno di un genere diverso. Perfetto. E, tant'è che c'è anche un bellissimo pezzo country, per far capire che alla fine il cerchio si chiude, anche Sting fa country. Certo, ma no, no, no, c'è, ce ne sono due, quindi. I Am Ahead. I Am Ahead. I'm so happy that I can't stop crying. È vero. E quindi questo qui è il primo che porterei. Il secondo è la mia componente West Coast ed è un disco di Tom Petty and the Heartbreakers. Quale? Damn the Torpedoes. Ah, lo sapevo che era quello. Sì, lo sapevo, sì, che sì, era sì, quello. Beh, diciamo che mi piacciono tutti, però in particolare quello c'ha, sono delle canzoni dentro bellissime. E non posso non portare un brano di Tom Petty, un disco di Tom Petty sull'Isola Deserta. Esatto. Avanti voi. Un secondo, ti fermo un momento, che c'è un messaggio di Mary. Grandissimi Nash, che emozione vedervi in streaming. Me la fate, Roxanne? Sì, sì, ci siamo, eccetera. Con tre punti di esclamativi. Questa è la nostra Mary, amica Mary. Saluto Mary. Ciao Mary. Salutiamo Mary. Nonché illustratrice della copertina, non di questo, ma del precedente. Perfetto. Registrato dal vivo. Quindi è molto importante. Molto brava, sì, anche. Sì. E il suo gruppo dove canta lei si chiamano Raclage, sono quattro ragazze. Rocchissime. E le salutiamo. Quindi le salutiamo tutte. Molto grazie. Bravo. Vai, Michele, tocca a te. Ah, tocca a me. Io ho l'anima quella un po' più dai rock normale, invece. Il passato mi ha mai sopito un po' più metal, quindi se devo scegliere un disco metal che cerchi di prenderli tutti, missione fallita in partenza, però io dico Master of Puppets dei Metallica. Sapevo che citavi Metallica. Non perché sia il mio preferito, ma perché diciamo è seminale, contiene molti elementi che poi sono in band che magari mi piacciono anche più dei Metallica, però se ne devo scegliere uno simbolico, hai scelto quello. E invece, nonostante il mio gruppo preferito siano i Queen, nonostante per me superiore a ogni cosa sì, sono i Pink Floyd, scelgo un disco dei Dire Straits. Perfetto. lo sapevo che li mettevi in mezzo. E dico Brothers in Arms perché per me è il più bello, anche se gli altri non è che siano peggio. È un'ingiustizia terribile scegliere due per cui smetto e mi metto a piangere in un angolo. Benissimo, tocca a Matteo. Me. Beh, anch'io allora due dischi. Non potrei sceglierne uno solo, perché io ho sempre avuto due lati di ascolto, sin da quando ero molto piccolo. Uno molto solare, e quindi qui sono un po' scontato, però scelgo un disco degli Eagles, sì, che mi piace molto, che è quello del 75, da cui noi a volte facevamo qualche pezzo, New Kid in Town. Sì, qualche momento, qualche traccia. Sì, sì, sì, qualcuno l'abbiamo fatto. Esatto. E poi abbiamo il jingle, ecco, ok? Il jingle io? Sì, perché poi non è molto non è un album solito degli Eagles, i soliti sono i primi, sì, 72, esatto. 73, Desperado, Eagles. Anche se hanno venduto lo stesso, Di transizione. Cioè. È un CD sì, un po' di transizione. Sì, perché è arrivato un nuovo chitarrista, il divorzio, cioè Joe Walsh che aveva un sound piuttosto corposo, sì, sì. Poi c'è quella bellissima Take It to the Limit, certo, che ho ascoltato, ci ho fatto il solco quando ero dodicenne più o meno, ecco. Che poi è stato il periodo che ascoltavo il CD in cui abbiamo iniziato con i Nashville. Ah, quindi? E quindi ha anche portato, è importante per quello. Sì, sì, ha ispirato poi tutto il progetto. Quindi sono scontato, ma salvo quello lì. Eagles, quello là. Invece sull'europeo, perché ho anche questo lato un po' fuligginoso, britannico, british, Scelgo The Lamb Lies Down on Broadway dei Genesis. Che è l'ultimo disco di Peter Gabriel, o meglio, sì, il primo disco di Peter Gabriel da solista. Un concept album su due dischi, bellissimo, che non c'entra niente con la West Coast Force. No, assolutamente niente. No. Però io ho anche questo animo un po' fuligginoso, un po' più... Ma secondo me non c'entra neppure con gli Eagles, con i Genesis praticamente. Sì. Il primo album solista di Peter Gabriel. Eccola, sa tutto. È una richiesta. Bravissimo. Ecco, quindi io porto okay, questi due album. Adesso suoniamo. Cosa suoniamo? Suoniamo, facciamo due pezzi dall'album dei Police, visto che siamo un po' qui per questo. Ok, vai. Il primo è una di quelle stravolte pesantemente, però di questa non temiamo, perché questa è praticamente un pezzo quasi di Sergio Leone. Sì, esattamente. Cioè, non che fosse lui il compositore, però insomma. Nasce come King of Pain, ma di King of Pain rimane il testo e il titolo. Poi rimane il testo, se me lo ricordo, perché io per esempio lì non vedo, quindi faccio anche rimane il testo, perché me lo passano. Passato, okay. Esatto. Ok, direi di iniziarla con i cori. Direi di sì. I've stood here before inside the pouring rain, with the world turning circles running around my brain. I guess I'm always hoping that you'll end this rain, but it's my destiny to be the king of pain. There's a little black spot on the sun today, the same old thing as yesterday. There's a black hat caught in a high treetop. There's a flagpole rag and the wind won't stop. I stood here before a pouring rain, with a bunch of circles running round my brain. I just have always hoping that you'll to that struggle in a high cliff wall, the death summer frozen in a waterfall. There's a blue whale beach by springtime's ebb. There's a butterfly trapped in a spider's web. There's a king on his throne with his eyes turned out. There's my soul out there. There's a blind man looking for a shadow of doubt. There's my soul out there. There's a rich man sleeping on a golden bed. There's my soul out there. There's a skeleton choking on a crust of bread. There's my soul out there. I stood here before a celebrating ring, with a bunch of the circles running round my brain. King of Pain. Yeah. King of Pain. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. C'era Agostino che la cantava, non la cantava alla Johnny Cash come l'hai cantata te, però molto bella alla Johnny Cash. Se avessi la voce di Johnny Cash, probabilmente però, sarebbe venuta. Però l'ispirazione era quella. Chi serviva me? O Johnny Cash o Christopher Lee o Vincent Price, gente di quel tipo. Bella la versione fra Morricone e Johnny Cash, quindi molto America e poco, poco, poco Morricone. Poco Police. Bella, bella, bella così, secondo me indovina. Avendo il testo sotto è rimasto, quindi almeno quello è rimasto. Ma anche la, anche la melodia. Sì, qualcosa è rimasto della melodia, però riveduta corretta dai Nashville. Questo è importante. Se devo essere sincero, l'idea del ritornello però era anche più moderna. Per esempio, c'è un pezzo nel penultimo album dei Muse, Knights of Sidonia, che ha questi cori un po' western, però chiaramente in chiave più moderna, elettronica, più Muse. E mi è venuto in mente, diciamo, che potevano starci bene in questo ritornello. Il soldone abbiamo rubato a destra manca. Non avete rubato, vi siete ispirati. Non diciamo così. Diciamo così, non avete rubato. Secondo pezzo di Police che facciamo adesso qual è? Siccome ce l'hanno richiesto, facciamo Roxanne. Una versione molto molto lenta, molto molto cinematografica, diciamo così, no? Com'è? È molto da pomiciata. Da pomiciata. Ok. Quindi che richiama un po' forse la versione di George Michael, però anche no, ecco, solamente perché è lenta. Anche no. Anche no. Roxanne. Streets. Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sei stati bravissimi, molto batto, molta drammaticità, volutamente drammatica, volutamente misteriosa, volutamente così, lenta. Certo, bene, ma bellissimo. Per far venire fuori meglio il significato della canzone. Sì, certo. Per questo. Esattamente. Quindi questi due pezzi dei Police, una quasi della parentela di Johnny Cash, quindi alla Johnny Cash, e l'altra una... Tu hai detto alla George Michael. No, in realtà no, solo perché è lenta. Facciamo esatto. Alla Nashville, ecco. Alla Nashville, basta, chiusa la parentesi. Diciamo, nell'album ci sono vari colori, perché abbiamo pensato che avendo una struttura melodica abbastanza scarna, perché percussioni quasi zero, almeno noi dal vivo zero, abbiamo due chitarre, un pianoforte, di base è tutto qui, quindi abbiamo sentito che comunque era un disco che aveva bisogno di avere colori diversi dal country, dal pezzi più lenti eccetera, in modo da non annoiare nelle tracce che sono comunque 15. Difatti sono diverse, ma anche perché le canzoni di Police permettono questa cosa, quindi l'abbiamo sfruttata appieno. Benissimo, adesso aspettiamo appieno, ancora suoniamo ancora perché il tempo corre e abbiamo poco tempo, abbiamo circa un 40 minuti scarsi. Cosa suoniamo adesso? Abbiamo chiuso la parentesi momentanea con i Police. Potremmo fare degli anni 80, qualcosa degli anni 80. Anche se avevamo trend. Ancora una cartuccia. Avevamo ancora quel pezzo, esatto. Quello là. Quello la facciamo prima della chiusura. Facciamo prima della chiusura, quello là. La chicca finale. I Nashville vanno a braccio, non è una finta per no, no, no, è tutto a braccio qua. Chi ci viene a sentire lo sa. Che... Chi ci conosce lo sa. Chi ci conosce lo sa. Ok. Cambio di situazione. Si mette la voce Matteo. Non so se hai notato, siamo tutti e tre cantanti, più o meno, solisti, quindi cerchiamo di a turno ognuno dare il proprio contributo. Vedi che non avevo capito niente? No, ho visto il titolo. Ecco, ragazzi, ricordatevi un certo gruppo inglese, molto bravo, Ricordate anche un certo signore, si chiamava Renato Zero. Ricordate soprattutto il gruppo inglese. Ok. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, heart it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, let me sing it so happily. All joyfully, oh, playfully, watching me. But then it sent me away to teach me how to be sensible, illogical, oh, responsible, practical. Let me show me a world where I could be so dependable. How clinical, how intellectual, cynical. There are times when all the world to sleep, the question runs so deep for such a simple man. Learn. I know the sun's a star. Please tell me who I am. I said, now what you say? Then you're calling me radical, a liberal, or fanatical, criminal. Or won't you sign on your name? Learn. I know it sounds absurd. Please tell me who. logical. Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ma chi sono i Supertramp? Uno strepitoso Matteo The Logical Song, Supertramp riveduti e corretti. Chiaramente. Da voi, in chiave anche per forza, perché pezzo favoloso dei Supertramp, conosciutissimo. L'epopea della band inglese. Sì, loro hanno un po' un punto di incontro fra certe sonorità progressive. Certo. In realtà dei pezzi dall'appeal pop è incredibile. Anche pop, da classifica, cioè Breakfast, certo, in America. Breakfast in America ha venduto non so quanto, tanti milioni di Good copie. Goodbye Stranger. Esattamente. E poi sono eccola qua, vabbè, bellissima. E poi perché ho citato Renato Zero? Perché Renato Zero ha tradotto Dreamer, non lo sapevo. Dreamer ha tradotto Renato Zero in Squadrina, quello è il titolo originale in italiano. Bene. Dreamer, chiaramente non poteva essere altrimenti. Ok, grandissimo pezzo del Super Tramp. Come mai Supertramp? Chiamate tanto i Supertramp? Supertramp perché effettivamente quello è uno di quegli album che certo, tutti abbiamo ascoltato, quindi noi cerchiamo comunque dal vivo, benché partiamo dalla West Coast come abbiamo ampiamente certo, visto, di diversificare un po' la nostra proposta, quindi abbiamo pensato che quello potesse essere un pezzo, cioè volevamo fare un pezzo e poi di un pezzo Tramp, corale al 100%. Matteo ha fatto una strepitosa interpretazione adesso. Però sì, è corale al 100%, sì, non sì, può sì, essere altrimenti. Sì, esatto, nel senso sono dei cori molto belli, molto ben arrangiati, e abbiamo pensato che potesse essere un pezzo buono da fare. Ne volevamo fare anche altre, poi alla fine abbiamo trovato che questa era quella che esattamente. Adesso si sono ricostituiti i Supertramp, lo sapete, no? Si ricostituiscono tutti. Lo so, un po' alla volta. Però perché la carriera solista del leader non è andata molto bene, allora ho deciso di prendere le fila quelle giuste. Cose che succedono. Cose che capita. Un'altra pagina del libro, cosa hai scelto adesso? È tutto dal vivo, è tutto sì, un jukebox sì, vivente qua. Questo. Le telecamere non mentono. No, le telecamere non mentono assolutamente. Tra l'altro, mentre decidiamo il prossimo step, ne approfitto per fare un saluto a tre bravissimi ragazzi di Verona che abbiamo conosciuto quest'estate, che si chiamano Home. Bene. Ah, gli Home, sì. Esatto, potete sì, potete trovare su MySpace. Lo sentite anch'io nominare. Sì, e sì, li vogliamo salutare se per caso ci stanno vedendo o sentendo o lo faranno. Bene, benissimo. Bene. Cosa hai scelto adesso, Marcello? Ma io, a me piacerebbe ritornare sui Crosby, Stills & Young. E se invece facessimo il tuo Tom Petty? Ah, Tom Petty, cosa fai di Tom Petty? You're So Bad. Ah, bello. A proposito, Diamond vs. Torpedoes è stato ristampato in edizione deluxe, è uscito esatto, da qualche settimana. Bene. Chi lo vuole acquistare, doppia edizione, con tutti gli inediti, tutte le cose fatte apposta per le ristampe. Sì, sì, sì, sì. Grande Tom Petty. Va bene. Ok. La voce è Marcello. Grazie. My sister got lucky, married the happy, took him for all he was worth. Now she sees a singer dating a singer, and I can't decide which is where. But not me, baby, I got you to save me. Oh, you're so bad, best thing I've ever had. In a world gone mad, you're so bad to me. My sister, this ex-husband, can't get no loving. Works hard and ducks faces her. Now he's getting nothing, head in the earth. I can't decide which is true. Not me, baby, I got you to save me. You're so bad, messing up. wishing I were in a world gone mad. You're so bad. You're so bad. Best thing I ever. You're so bad to me. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Il bello dei Nashville che si divertono, vi state divertendo al massimo. Come dei bambini. Sempre. Ma Tom Petty, Stella Strisce, assolutamente Stella Strisce. Ah, che bravo che è Tom Petty. Tom Petty ha una particolarità, due accordi fa la canzone e ti rimane in testa. Esatto. E sono tutte, cioè, tutte con due o tre accordi facilissimi, semplicissimi. Questo è il potere ma di un grandissimo cantautore. È con una band colossale. Non sarebbe Tom Petty. Sì, è una band colossale, bravissimo. Tom Petty, Heartbreakers. Bellissimo. Comunque, cioè, a casa si sta bene, uscire con gli amici si sta bene, se noi non ci divertissimo qui faremo quest'altra cosa. State divertendo, voi state divertendo i nostri ascoltatori, esatto, che sono esatto. Decisamente attirati, presi da questa musica variopinta, questo jukebox vivente che continuamente cambiamo. Cosa dunque facciamo? La pagina, dove arrivi? Io avevo quest'idea. Ah, dimmi, dimmi. Esatto, è stata seguita. Ah, che bello, questo è un pezzo, non ha ancora questo, non ha bisogno di presentazioni ragazzi, no. È un pezzo favoloso, delicato, dolce. Allora adesso ti sfidiamo, qui il collegamento noi lo sappiamo, ce lo devi trovare te, da Tom Petty a questa. Ok. Però è facile. Prezzo. Al massimo te lo diciamo fuori cuffia così ecco, non facciamo brutte figure. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say, it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it's been like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, the smile returning to the faces. Little darling, it feels like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Here comes the sun. Here comes the sun, I say it's alright. It's alright. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, cosa posso dire? Posso aprire l'album, si chiamava Abbey Road, posso centrare la traccia dove c'è Here Come the Sun, e che è stata rilanciata da una pubblicità di recente. Perché questi sono pezzi immortali, non finiranno mai. I Beatles saranno sempre sentiti, passano gli anni ma i Beatles vengono sempre sentiti. E questo è un pezzo di George Harrison. George Harrison veniva poco utilizzato dai Beatles, ma quando scriveva un pezzo, cosa ha detto Frank Sinatra su Something? Il miglior pezzo mai scritto. Esattamente. Esattamente. Era molto quasi progressive. E Abbey Road è un album molto difficile. Molto, molto bello. Molto bello, molto bello tutto. Al di là di lui che era senza scarpe quando sì. attraversava le strisce peronali. Al di là di quello. Al di là di quello. E sì, l'interrogativo che mi ha fatto Michele, sì, perché cosa c'è il rapporto tra Tom Petty e George Harrison? Perché hanno suonato assieme, esatto. Un gruppo famoso. Esatto, esatto. Super gruppo famoso. Anche Roy Orbison. Bob Dylan. Jeff Lynne. Un sacco di gente. Jeff Lynne fa parte di Move, dell'Electric Light Orchestra. Esatto. Tutta mia la città, ve lo ricordate, tutta la mia città, sì, dell'equipa, sì. Voi che siete romagnoli. Era un pezzo di Move scritto da Jeff Lynne, tra parentesi. Poi grande produttore. È un grande produttore. Blackberry Way. Esattamente. È proprio quella, il titolo originale. Era un grande produttore. È ancora adesso, si è un po' defilato adesso. Sì, sì, sì. Ha preso un sacco di... ha avuto i suoi due decenni. Esattamente, di grande successo con gli Electric Light Orchestra. Pezzo favoloso, Here Come the Sun. Cosa si può dire dopo un pezzo simile? Cosa facciamo dopo? Fammi vedere. Non ci vedo. No, non lo so. Non ci vedo da qua. Sì, potremmo fare un estratto. Per me mancano due momenti dei Nash, dei concerti Nash. Sì, in effetti. Il momento Hippie Generation. Benissimo, facciamo un pezzo Hippie Generation. Ecco, quindi possiamo scegliere fra, non so, San Francisco. Io andrei di Scott McKenzie. Scott McKenzie. Grande Scott McKenzie. Ok. Queste pause servono per convincere tutti che è assolutamente tutto dal vivo. È tutto dal vivo. Le pause servono tutto dal vivo. Esatto, esatto. Webcam fa vedere tutto. Esatto, esatto. Non si mette. 3-4. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. For those who come to San Francisco, summertime will be a lonely day. In the streets of San Francisco, gentle people with flowers in their hair. Summertime will be a lonely day. L'onda del rock. Ok, ragazzi, quel giorno quel ragazzo di una certa età è venuto da voi e mi ha detto: mi avete fatto portare alla mente cose molto belle. Avete suonato San Francisco di Scott McKenzie, che tra l'altro è stata scritta da John Phillips, leader di Mamas and Papas. Ecco, c'è un collegamento, io volevo arrivare a quello. Esatto. C'è un messaggio per voi, sempre dalla Mary. Mary, bellissimi, grazie. Bellissime, grazie. Belle canzoni, ecco. Anche voi, chiaramente. E poi Alessia, grazie Nashville, siete mitici. Quando fate un concerto in Veneto? Ecco, vedi. Ne stiamo facendo Chiara. Uno, dopo si vedrà. Sì, solo per pochi. È a porte chiuse. Quando ci chiameranno, quando qualcuno... Questo serve anche per sentire la radio, serve anche per... Esatto, può capitare, esattamente. Cosa facciamo adesso? Facciamo il collegamento, una piccola strofa di California Dreaming, così colleghiamo con John Phillips di Mamas and Papas, oppure no? No. No, perfetto. No, perché dimmi ci allora, teniamo... l'altro aspetto che aveva citato Matteo, mi pare, sì. Sì, questo era l'aspetto hippie, non la hippie. Che bello, che bello, l'aspetto hippie, che bello. Poi c'è la parte folk, che vai. Qualcosa abbiamo fatto, però si potrebbe fare ancora qualcosa, non so. Cosa va, volete fare? Bob Dylan oppure... Sì, ma forse io passerei... E c'è anche un grande assente. Esatto. Un grande assente che sono i Creedence. Non abbiamo fatto ancora un pezzo di Creedence. Dobbiamo citare i Creedence. Sì. Sì. Dovendo fare i Creedence, dovendo fare un pezzo country... Certo. Sono d'accordo. C'è un pezzo che chiaramente country di Creedence, che abbiamo fatto nostro da molto tempo, è il pezzo che apre tutti i nostri momenti country, per cui lo facciamo subito. Esatto, e lo apriamo con una chicca. Sono le 11:40, qualcuno chi si deve un po' svegliare, esatto. Che si è assopito. Esatto. E qui ridono sempre tutti quando iniziamo questo pezzo. Potete anche cantarlo, eh? Sì, sì, sì, tutti insieme. Setting, pretty soon I'm singing. Do, do, do, looking at my back door. This guy I'm doing cartwheels, sat to where I is. Looking for the happy creatures dancing on alone. Downers of Ventrona, listening to my cold ones. Do, do, do, looking at my back door. To take a ride on the flies, on the rose of Persian, provided by magician. Do, do, do, looking at my back door. Take a ride on the flies, by the mid tomorrow. Today I'll find no sorrow. Do, do, do, looking at my back door. For a tough old Billy Dice, like the front door of a boy. Just dancing on and on slow. Bother me tomorrow. Today I find all sorrow. Do, do, do, looking at my back door. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Guarda che cazzo di cane sta faccio, sono brutto. Ok, Agostino, cosa dici? Sono stati strepitosi, strepitosi, grazie, decisamente. Grazie. Avete... Sta alzando la temperatura. Il nostro bello, brodo, è questo è il nostro brodo. Ancora un quarto d'ora, quindi senza soluzione di continuità. Via, cosa sì, suoniamo? Sì, come se non ci fosse un domani. Altro country? Altro country. Sì, sì, sì. Ah, ok, ho capito. Siamo quello, vediamo, vediamo. Cercare di capire il titolo di una canzone dal labiale, quando il titolo della canzone ha quasi solo vocali. Siamo in radio, se te lo dico, si svela subito. Più che country è western, western. Esattamente. Sì, sì, sì, sì. Ok. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, though the streets are swollen, keep them doggies moving, roll high. Hearing the wind and weather, hell bent for leather, wishing my God was by my side. All the things are missing, good feelings, love and kissing, waiting at the end of my ride. Hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, move 'em up, hit 'em up, hit 'em up, roll high, ride 'em out, run 'em in, cut 'em in, cut 'em out, ride 'em out, ride 'em in, roll high. Do do do do do do do do do do do. Keep moving, moving, moving, though the G's are proven, we'll keep them doggies moving, roll high. Don't try to understand them, just ripping the umbrella, some will be waiting by line. My heart's calculating, my true love will be waiting, waiting at the end of our ride. Hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, move 'em on, hit 'em up, hit 'em up, roll high, ride 'em out, ride 'em in, cut 'em in, get 'em out, ride 'em out, ride 'em in, roll high. Siamo, non siamo in studio di radio qui, siamo proprio sul palco. Sul palco. Siamo sul palco, siamo sul palco. Abbiamo palco... suonato in palchi molto più piccoli. Sì, sì. Bello, bellissimo. Citiamo il titolo perché non abbiamo detto di questo pezzo. Theme from Rawhide. Bello. Dal film era la sigla di Blues Brothers. Esattamente. Posso intervenire? Agostino, allora c'è un saluto da parte di Mary che dice una yeah country doc per il momento Credence. Ma c'è benissimo, ma c'è solo Mary che ascolta. Scusa. No, a Mary. È omonimia, è omonimia. No, perché c'hai messaggi gratis. Allora. Grazie Mary, grazie. Grazie Mary. Ok. Citiamo una cosa, sono le note di servizio. Dove si può trovare il vostro disco innanzitutto? Allora, sicuramente su iTunes si può scaricare digitalmente, altrimenti su Amazon, un altro sito, si può trovare anche in formato fisico. Altrimenti sul nostro sito si può ordinare. Ci sono anche le bellissime magliette, ci sono i pacchetti, uno compra quello, quell'altro, con sconti. E quindi se uno è interessato ai CD dei Nashville... E al merchandising, diciamo che non rimane deluso, ecco. E non dimenticate anche di visitare il nostro sito nashvilletrio.it, dove potete trovare video, audio, qualsiasi cosa. Siamo anche l'acquisto dei CD stessi. Avete qualche data di recente da fare? Sì, sabato. Sabato questo? Sempre sabato a Rimini. In quel di Rimini, al Roadhouse. Al Roadhouse. che è un locale vicino, vicinissimo al centro. Quindi... ormai chiamiamo casa, ogni tanto andiamo lì. E poi, ecco, dove ci chiamano noi andiamo, quindi chiunque fosse interessato, una telefonata in Nashville e loro prendono la macchinina e vengono, si muovono. Esatto. Adesso c'è il ponte, sabato, io un pensierino ce lo farei. Abbiamo fatto una vigilia della Befana bellissima, secondo me. Proprio noi ci siamo divertiti. Moltissimo. Noi sicuramente, anche voi e anche gli ascoltatori. Abbiamo ancora 10 minuti da buttare suonando, assolutamente suonando. Io direi che 2 ce le riusciamo a far stare. Sì, ma anche 3. Anche 3. Arriviamo fino a 12 e 3, 12 e 3 al massimo. Va bene. Cosa suoniamo adesso? Ne riprendiamo uno, non la facciamo. Sì. Cioè, direi no. Farla. Sì, sì. Ne riprendiamo. Allora facciamo così. Dimmi. Facciamo il programma degli ultimi 10 minuti. Sì. Facciamo un brano dall'ultimo CD di Nashville, Tribute Police. E poi 2 cose. E poi una cosa estemporanea, gentilmente richiesta dal sottoscritto. Da sottoscritto, esatto. E poi concludiamo con un pezzo da gran finale. E salutiamo tutti. Benissimo. Ora andiamo col pezzo di Police. Without Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ci siamo. Abbiamo finito, purtroppo questa cavalcata bellissima, io continuerei per tutta la notte, però chiaramente abbiamo i nostri termini e voi dovete tornare a casa, dovete tornare a Rimini. Esattamente, quindi dobbiamo salutarci, io vi ringrazio di essere venuti qua, di aver fatto un po' di chilometri per venire a suonare da noi. Volentieri. Noi siamo stati contentissimi, è stata una cosa meravigliosa, una vigilia della Befana veramente strepitosa. Molte grazie. Grazie a voi. E terminiamo con due pezzi. Sì, allora terminiamo con due pezzi. Uno dietro l'altro. Esatto, dico. Uno sempre... A gentile richiesta? Deriva, l'abbiamo invertito. Uno che deriva dall'album, il pezzo si chiama So Lonely. So Lonely, in versione Nashville molto rivisitata, canta Matteo, e poi una struggente Desperado in onore di Maurizio che ci ha ringraziamo questa sera. Sì, ringraziamo, sono stati benissimo. Attraverso qualche segnale ci ha fatto capire che mi piace. Moltissimo. Ringraziamo veramente tutti e via, vai con la musica. Grazie a tutti e buonanotte. Someone told me yesterday that when you throw your love away, you act as if you just don't care. You look as if you're going somewhere. Can't convince myself I couldn't live with no one else, and I can only play that part and see the nurse my broken heart. So lonely, so lonely, so lonely, so lonely, so lonely, so lonely, so lonely. Now one knock upon my door, for a thousand years old. Take a seat, hey, always free. No surprise, no mystery. In this theater that I call my soul, I always play the desperado. Why don't you come to your senses? You've been at riding fences for so long now. Oh, you're a hard one. I know that you got your reason. This thing that I please in you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, it's just some people talking. Your prison is rocking to this world all along. Too late.